Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa prima giornata economico-finanziaria della settimana. Beh, partiremo subito con i mal di pancia che arrivano in Europa sulla situazione italiana. Nel fine settimana vi sarete accorti che, e anche oggi sui giornali, di vari articoli di giornale che riportano una sostanziale malumore di parte dell'industria tedesca, c'è cioè chi ha citato anche l'ex presidente Confindustria Germania, sulla permanenza dell'Italia nell'euro. Ora, al di là dei mal di pancia, ognuno può avere quelli che vuole, il tema in realtà è un tema molto delicato, e cioè quanto, già lo affrontavamo la settimana scorsa, quanto i paesi europei, in particolar modo la Germania, aspetteranno che l'Italia trovi una soluzione a questo tunnel, come abbiamo battezzato anche alcune trasmissioni di questa radio, il tunnel della politica, o la politica nel tunnel, quanto potrà restare in questo tunnel. E questa sarà anche l'occasione per fare alle 18:15 il punto sulla settimana politica, come spesso facciamo il lunedì, appunto per capire, non mi sembra che vi siano grossi chiarimenti o schiarite. Però, ripeto, a mio avviso, perlomeno da un punto di vista economico-finanziario, la scadenza ultima, quella che gli inglesi chiamano deadline, per noi è il 15 marzo, cioè tra pochissimo, quando vi sarà un Consiglio europeo in cui deve esserci anche un Presidente del Consiglio italiano. È chiaro che potrà andare Monti, che è il Presidente uscente, ma è altrettanto chiaro che, visto il risultato elettorale di Monti, sarebbe un Presidente del Consiglio diciamo con poca forza rappresentativa, sapendo che il Parlamento è un altro Parlamento rispetto a quello che lo appoggiava durante il suo governo. E questo è un aspetto. L'altro aspetto riguarda invece le borse. Allora, le borse oggi sono negativa: Milano meno 0,65%, Parigi più 0,44%, Francoforte meno 0,20%, Londra meno 0,36%. Ci sono però variazioni interessanti, tra virgolette, dentro l'indice di Piazza Affari. Mediaset perde il 6,34%, Mediobanca il 4%, Intesa il 2,90%, Monte dei Paschi il 2,70%, Saipem meno 2,60%, Fiat meno 2,30%, Unicredit meno 2,30% anch'essa, Atlantia meno 2,20%, Mediolanum meno 2% come Parmalat e Generali, il 2% lo perde Tenaris. Fronte opposto invece la Popolare Emilia Romagna più 2,30%, Diassori in più 2%, Luxottica più 1,90% come Ferragamo, Enel più 1,70%, Enel Green Power più 1,20%, Steam Microelectronics più 1%, Autogrill più 0,90%. 90%. Segnalo che anche appunto Atlanti è debole meno 2,30%, così come generalmente tutti i bancari. L'euro a quota 1,30,86. Parleremo anche comunque del vertice Eurogruppo, in cui è ovvio che l'Italia sia un po' l'osservato speciale, e anche della conferma che la 7, e quindi Telecom Italia Media, stando a fonti battute dalle agenzie, il consiglio di amministrazione di Telecom Italia Media avrebbe dato via libera alla cessione di La 7 a Urbano Cairo. E c'è stata anche una battuta ai microfoni di Radio 24, proprio di Urbano Cairo, che ha confermato: insomma, ho preso una bella patata bollente. Poi magari l'ascolteremo. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Petrolio, restiamo sui mercati ai minimi delle ultime 10 settimane, $90,4 al barile. Non sta pesando invece il blocco del gasdotto libico Green Stream, operato congiuntamente dall'Eni con Tripoli. Poi avete visto che ci sono stati anche sviluppi su questo. Per quello che riguarda invece i mercati, allora, il nostro spread resta su livelli più alti rispetto al pre-elezioni. Siamo intorno a 60-70 punti più del livello preelettorale, 348 punti in apertura questa mattina, 340 in chiusura venerdì. Il rendimento dei titoli di Stato comunque a febbraio, insomma, era un mese ancora preelettorale in qualche modo, è al 3,54%. Interessante comunque il risultato che è arrivato dalla Svizzera, che oggi la Commissione Europea saluta con favore. Perché? Perché la Svizzera ha deciso, con un referendum in cui hanno stravinto i sì, 68%, di mettere un tetto agli stipendi e alle liquidazioni dei top manager. E quindi era un'iniziativa lanciata da un piccolo imprenditore per porre un freno alle retribuzioni abusive, vietare liquidazioni, paracaduti dorati per le aziende quotate in borsa. E questo è un tema che affrontiamo obiettivamente da 4 anni, da quando la crisi è scoppiata, no? Le buone uscite di manager in molti casi di gruppi bancari, ma non solo, completamente slegate, devo dire anche in Italia, dai risultati dei gruppi stessi, ma non mi riferisco solo alla finanza. Comunque la Commissione Europea applaude all'iniziativa svizzera, è molto positivo, ha detto il commissario europeo al mercato interno Michel Barnier, che al di là dell'Unione Europea si crea un impulso per una migliore regolamentazione in materia di politica delle remunerazioni e per creare più trasparenza. Dicevo che parleremo dell'Eurogruppo, formalmente il primo punto in agenda è il salvataggio di Cipro, ma in realtà ne abbiamo parlato proprio la settimana elettorale, in realtà Cipro ha bisogno di 18 miliardi, però è l'Italia al centro dell'attenzione, questo è indubbio, anche perché nel giorno in cui la Lettonia ha firmato la richiesta formale di aderire all'area euro, che consegnerà domani la Commissione Europea, però appunto né Lettonia né Cipro sono l'oggetto del contendere, il vero interesse è cosa capiterà l'Italia. Tra l'altro ieri si è saputo, lo ha diffuso l'Istat come dato, che in Italia i salari sono del 14,5% sotto alla media di quelli tedeschi, i salari italiani chiaramente, meno 13% rispetto a quelli britannici, meno 11% rispetto a quelli francesi, sono superiori invece del 25% a quelli spagnoli. Adesso arriviamo all'euroscetticismo alla tedesca, come potremmo chiamarlo, però per essere corretti, anche perché non ho mai accettato la critica, voi volete che la Germania ci aiuti senza chiedere niente in cambio, no, noi facciamo i compiti a casa, tagliamo gli sprechi della pubblica amministrazione, non è pensabile che tutti i soldi che spendiamo in pubblica amministrazione siano tutti giustificabili, e non vuol dire tagliare gli stipendi, ci mancherebbe. Ma continuiamo a denunciare il mal costume, per essere buoni, della politica di casa nostra. È ovvio, molti dicono, ecco, con le notizie che date nel vostro appuntamento, diciamo così, sugli sprechi della politica, ti credo che la Germania non ci vuole aiutare. No, a mio avviso sono possibili due cose. Da un lato affrontare il tema della recessione dell'area euro con politiche anticicliche, quindi che permettono di far ripartire investimenti e consumi, che distinguono tra un deficit cattivo e un deficit buono, lo dicevamo anche venerdì, deficit buono è quello che viene fatto perché investi in infrastrutture, investi in formazione, defiscalizzi in busta paga, quindi lasci qualche euro in più in busta paga, quello è un deficit che fa ripartire i consumi, dovrebbe far ripartire anche il PIL. Il deficit cattivo è quello che ottieni con gli sprechi, con il malcostume, con opere inutili ma soprattutto anche spesso non realizzate e con una spesa fuori controllo. Io penso che si possa distinguere tra deficit buono e deficit cattivo, e penso che l'Europa possa fare questo, mentre l'Italia deve assumersi le sue responsabilità, come raccontiamo purtroppo anche oggi. Sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, Per esempio, se vogliamo risultare credibili non solo verso l'elettorato ma anche verso l'estero, sarebbe interessante sapere perché il presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio, si chiama Mario Bruzzese, quello uscente chiaramente, ha speso nel 2011 alla voce spese di rappresentanza 1.987.000 euro, 2 milioni di euro quasi, sono 25 volte il budget per spese di rappresentanza concesso al presidente della Repubblica Federale Tedesca. Ok? Per cui 1.987.000 euro, 25 volte le spese di rappresentanza del presidente della Repubblica Federale Tedesca, con amenità quali 67 penne Mont Blanc da 280 euro ciascuna, 100 cesti natalizi in tutto 21.000 euro, oppure agende da tavolo che sono costate quasi 80.000 euro o 11.000 euro in biglietti di auguri, perché chi può rinunciare al biglietto di auguri del presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio? Il problema è che se poi uno guarda il bilancio ufficiale del Consiglio regionale del Lazio non trova traccia delle penne Mont Blanc né dei cesti natalizi, è tutto accorpato in macro voci, cioè nel senso, e poi c'è una lista acquisita dai giudici contabili con una sfilza di contributi ad enti e associazioni locali quali I Love Alatri, inteso come il paese immagino, Dorado Fishing Club, Tarquini Allegra, Passione Cavallo, Comitato Sagra della Bistecca. Non sono tanti soldi, 1.000-2.000 euro ogni volta, però voi capite che no. E poi servizi fotografici, spese per i buffet del presidente, 30 piattini di 60, al modico prezzo di 60 euro caduno, 23.000 euro spesi per la stampa di Cassino e i suoi monumenti, che è la città natale di Abruzzese, di Mario Bruzzese. Meno male che sul fronte invece della Camera dei Deputati il PD ha detto no all'assunzione a tempo indeterminato di 30 persone, che è una sanatoria di fatto, però insomma l'abbiamo raccontata la scorsa settimana, non ci sembra il caso che vengano fatte assunzioni a tempo indeterminato proprio quando, diciamo, nella parte finale, negli ultimi atti del vecchio Parlamento. E da questo punto di vista, insomma, ci facciano sapere anche perché, com'è possibile spendere 2 milioni di euro per la rappresentanza del presidente di un consiglio regionale. Queste cose danneggiano, e chiaramente poi gli euroscettici, anche tedeschi, ci vanno a nozze, e non deve sorprendere quello che stiamo per raccontare, e cioè che monta da più parti l'idea che la Germania, diciamo, debba trovare un'altra soluzione, no ai salvataggi dei pigs, dei paesi in difficoltà, e praticamente i paesi violerebbero la legalità dei trattati di Maastricht infrangendo la clausola del non salvataggio, e quindi insomma sta montando un moto di, chiamiamolo così, euroscetticismo alla tedesca. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Eh sì, perché ci sono state dichiarazioni attribuite all'ex presidente della Confindustria tedesca. A Berlino è nato il partito della valuta del Nord. Gli euroscettici tedeschi si organizzano in un nuovo partito, infatti in vista delle elezioni politiche di settembre. Chiaramente la loro stessa presenza in campagna elettorale potrebbe tra l'altro anche mettere in difficoltà Angela Merkel, provocando un irrigidimento delle posizioni tedesche. L'iniziativa si chiama Alternativa per la Germania e appunto vuole che non si faccia nessun aiuto ai paesi in difficoltà. Questo nel giorno in cui in Portogallo la manifestazione contro la politica di austerità e per chiedere le dimissioni del governo di centrodestra del premier Pedro Passos Coelho ha visto 1.500.000 di portoghesi sfilare in 34 città. A Lisbona tra i 200 e i 500.000 dimostranti si sono affollati nella centrale Praça do Comércio e hanno intonato lo slogan "è ora che il governo se ne vada". Ringrazio per averci raggiunto in collegamento. Da un lato Tobias Piller, che è un nostro ospite ogni tanto, è il corrispondente da molti anni in Italia per la Frankfurt Allgemeine Zeitung. Buonasera Tobias. Buonasera. Ciao. E grazie anche a Alessandro Merli, che invece è corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Allora Tobias, io so che tu ti occupi giustamente di raccontare l'Italia e la Germania, e mi sembra che tu abbia più di un bel po' di materia in questo periodo. Assolutamente. Però cerca di farci capire invece quello che è la pancia tedesca. Cioè, queste iniziative sono, tra virgolette, folklore, cioè si va verso le elezioni anche in Germania e quindi ci può stare. Abbiamo visto qualunque tipo di movimento in Italia, anche il movimento degli euroscettici. C'è un reale timore che l'euro non tenga, e diciamo, qual è l'obiettivo di fondo se non si tratta solo di elementi marginali? Non si sa se questo sarà marginale o no. Certamente in Baviera, sul livello locale, c'è già un partitino regionale anti-euro, vuole che la Germania lasci l'euro, e alle ultime elezioni regionali aveva vinto 10% e ha finito il governo dei conservatori della CSU di Angela Merkel, che stava lì da più di 40 anni. E questo spiega anche un pochino le posizioni critiche su tanti livelli europei. La Germania vede l'euro come una promessa che è stato dato all'inizio, che l'euro non sarà meno duro del marco, quindi sarà una moneta affidabile, e certo è stato anche promesso che l'euro non sarà un veicolo che porti la Germania a finanziare tutto il sud dell'Europa. In quel senso, chi adesso vuole nuove iniziative politiche con l'obiettivo di dire: vedete, tutte queste promesse che sono state fatte non solo dai politici tedeschi come Kohl, ma anche dai politici dei paesi del sud Europa, ricordiamoci Ciampi e Prodi, tutte queste promesse sono state disattese. E così ci sono politici che pure dicono: così è stata una fregatura, una menzogna, e allora c'è la controreazione. Ecco, una cosa però, c'è l'idea, per carità magari sbagliata, che la Germania dall'euro sia uno dei pochi paesi che sta ottenendo vantaggi in realtà, nel senso che è una valuta che ha un rapporto di cambio col dollaro ancora accettabile per la Germania. C'era uno studio due settimane fa di Merrill Lynch che diceva per la Germania fino a 1,50 può andare bene. Allora, come si giustifica? Cioè, io vorrei capire, al di là delle iniziative singole, che per carità... Lì la discussione può essere più lunga. Cioè, io non penso che ci vorrebbe un peso morto di economie che non si sono riformate. Secondo me, specialmente l'Italia ha tutte le possibilità di riformarsi e crescere. L'Italia non è stata forzata di aggiungere l'euro, anzi l'Italia ha voluto entrare nell'euro, ha risparmiato non so centinaia di miliardi di euro in tassi di interesse dello Stato, e anche tutti gli italiani che si sono fatti un mutuo hanno visto che i tassi di interesse sono abbassati, e anche le aziende hanno avuto prospettive molto più stabili per i loro investimenti. Questo per solo così citare un po' di vantaggi per l'Italia. Non so se l'Italia in una politica di svalutazione tipo anni 70, anni 80, oggi avrebbe ancora successo, perché io temo che in quel caso l'Italia farebbe concorrenza ai cinesi, ai coreani, e così si staccherebbe completamente da quell'economia, diciamo, nord europea o tedesca o americana, di economie di alta produttività e di alto valore aggiunto. E allora non c'è altra strada, secondo me, che l'Italia debba così ristrutturare la propria macchina dell'economia e dell'amministrazione, della giustizia, tanto. No, ma certo, a me interessa per un'altra cosa, nel senso che noi vediamo che da più parti, ripeto, il capo economista del Fondo Monetario Blanchard, è stato l'ultimo, sono arrivati dubbi o critiche sulla la linea della sola austerità. Nessuno dice che non debba essere tenuto sotto controllo il deficit o il debito, ma insomma da più parti si chiede, anche da parte francese, che l'Europa non chieda solo tagli, perché si sta avvitando l'economia di questi paesi e i tassi di disoccupazione anche in Francia, Tobias, sì, sono a livello record. No, andiamo al feeling in Germania. Allora, esatto. In Germania si pensa che la Germania non avrebbe chiesto solo austerità, no, ma sono state date delle garanzie, è stato istituito che il fondo di solidarietà, di salvataggio è anche un strumento di solidarietà, e in cambio certamente i singoli paesi che partecipano hanno anche detto non andiamo avanti con la spesa come prima, e poi hanno detto anche faremo delle riforme per crescere di più. Così la Merkel, in questa visione nell'insieme tra estremisti in Germania e tra le richieste nell'Italia, io vedo la Merkel abbastanza pragmatica, che cercava di venire incontro alle necessità del momento, ma non può andare oltre e certamente non può risolvere i problemi, per esempio, della crescita italiana da sola. No, questo è chiaro, però diciamo, siccome le politiche economiche sono europee, se noi parliamo di deficit buono e deficit cattivo, questa è una, sì, un attimo Tobias, questa è una cosa che deve arrivare da Bruxelles, non può decidere un singolo paese. Io volevo sentire Alessandro Merli, che da italiano invece racconta la Germania per il Sole 24 Ore. Di nuovo, per non creare poi sensazionalismo giornalistico, si tratta di mosse da campagna elettorale, per cui ogni partito, si creano svariati partiti, oppure c'è una riflessione più profonda e più strisciante in Germania sul senso nel tenere l'euro con tutti questi paesi così diversi anche tra loro e con economie che vanno in maniera così diversa? Ma diciamo che ci sono due elementi: uno, un po' il salto di qualità di questo movimento, che da un movimento che si era fermato fino adesso soprattutto in Baviera, nei cosiddetti liberi elettori, no? E con questa partecipazione di diversi economisti e altri, fa un po' un salto di qualità, o lo potrà fare eventualmente con la creazione di questo partito Alternativa per la Germania in aprile, per presentarsi poi a livello nazionale alle elezioni di settembre. Resta tutto da vedere se riuscirà a scalfire la popolarità di Angela Merkel, perché ricordiamoci che finora l'opinione pubblica ha dimostrato insoddisfazione con i salvataggi, è convinta che il costo ricada tutto sui contribuenti tedeschi, però comunque ha dato fiducia alla Merkel, a quella linea pragmatica di cui diceva Piller prima, il fatto che stia cercando di navigare fra il fatto che comunque l'euro va tenuto assieme ma senza eccessivi aggravi per il contribuente tedesco. C'è un'insoddisfazione di fondo, bisogna vedere se appunto si concretizzerà con il voto a questi partiti alternativi di nome di fatto, oppure se il tedesco comunque continuerà, l'elettore tedesco continuerà a dar fiducia alla signora Merkel, perché comunque fino adesso ha condotto questa vicenda dell'euro in un modo relativamente indolore. Ecco, ma per la adesso per esempio Tobias Piller diceva attenzione, perché dal suo punto di vista non è che l'Italia ne avrebbe tutti questi vantaggi a uscire dall'euro, come dire, è meglio che faccia si metta in ordine i conti, perché non esiste un'alternativa. In realtà noi spesso facciamo un ragionamento opposto, cioè diciamo non è che la Germania avrebbe tutti questi vantaggi nell'uscita dall'euro, perché comunque l'euro è una valuta con un rapporto di cambio col dollaro ancora accettabile per la Germania, che ha un sistema produttivo di un certo tipo, è un po' cara per noi ma molto meno cara per la Germania come valuta. Allora Alessandro, ma si sta diffondendo anche un sentire che forse diciamo la Germania ce la può fare, non dico da sola, ma con i paesi del nord, perché poi questo vorrebbe dire anche chiaramente l'Olanda e parte dei paesi del nord, cioè che a questo punto non sia più un tabù ragionare se tenere tutti questi paesi nell'euro, perché dal nostro punto di vista sembra quasi automatico che la Germania ne abbia un vantaggio, visto come sono andati i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi, come va la sua economia, il fatto che comunque risulta il paese più virtuoso. Prego. Ma ci sono alcuni gruppi di pressione che in passato erano stati nettamente favorevoli all'euro, come per esempio gli industriali, che in parte hanno rettificato il tiro. Credo che i grandi guadagni di produttività che sono stati fatti in Germania negli ultimi 10 anni li abbiano un po' convinti di essersi messo al riparo da un'eventuale rottura dell'euro, e dall'altro il fatto di aver sfruttato meglio di altri paesi i mercati fuori dalla Unione Monetaria li ha convinti che il futuro sia in Cina, in Asia e altrove, non nell'area dell'euro. È anche vero però che molta parte dell'industria tedesca continua a esportare delle quote significative del suo fatturato in Italia, Spagna, Francia, questi mercati sono tutti morti, per cui bisogna vedere se questi gruppi di pressione che in passato erano stati nettamente favorevoli all'euro continueranno a esserlo o no, ma credo che alla fine si giocherà molto di più sulla fiducia o meno dell'elettore tedesco nella capacità della signora Merkel di tirarli fuori da questa crisi che non sulla capacità di questi partiti alternativi e poi di affermare le proprie opinioni. Semplicemente questo partito, quando ci sarà, potrebbe canalizzare una protesta che finora certo non aveva trovato uno sbocco vero e proprio, nel senso che comunque se guardiamo la composizione di questo gruppo promotore di questo partito sono quasi tutti dei fuoriusciti dai democristiani della signora Merkel, quindi finora era comunque un'insoddisfazione, una protesta che era andata sempre nel solco della certo CDU. Adesso può darsi che trovi, però al momento non vedo una rivoluzione della anti-Merkel. No, dico, però sono fenomeni da tenere anche sotto osservazione, perché sai, con quello che sta capitando in Europa. Infatti vorrei chiedere a Tobias Spiller come ultima domanda, tu ci hai spiegato bene perché all'Italia non converrebbe uscire dall'euro, parli con uno che insomma da sempre tiene una follia questa ipotesi, però ai tedeschi, secondo te, all'opinione pubblica tedesca, lasciando stare alcuni gruppi minoritari, è chiaro anche i vantaggi che la Germania ha avuto, sono chiari i vantaggi che la Germania ha avuto dall'euro oppure no? O vedono solo, diciamo, i costi eventuali? I tedeschi vedono che i vantaggi, la crescita, la vivacità dell'economia in tedesca attualmente sarebbe più un effetto dei sacrifici e delle riforme sulla supply side, con i tagli sulla spesa pubblica che si sono avviati dal 2003 in poi. Lo vedo molto più come un effetto di queste riforme anziché di un effetto dell'euro. Perciò dice, vabbè, se noi abbiamo tagliato, abbiamo riformato e abbiamo avuto successo, perché gli altri dicono non vogliamo tagliare ma spendere di più e non fare le riforme sulla struttura della nostra economia? In quel senso lì si viaggia su binari diversi. Grazie sia Alessandro Melli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, dalla Germania, sia Tobias Spiller, corrispondente per la Frankfurter Allgemeine Zeitung da Roma. Grazie a tutti e due, e staremo a vedere perché, ripeto, le cose vanno osservate, non c'è da drammatizzarle. Però è interessante notare che anche in Germania, non solo in Portogallo, Grecia, Spagna o Italia, stia montando per ora un limitato sentimento di euro scetticismo. Euroscetticismo no, la borsa ha chiuso a Milano con un calo dello 0,85%, a Francoforte 0,21%, Londra meno 0,5%, l'America meno 0,15%, Parigi invece più 0,30%. Devo dire bene alcune banche, una soprattutto, la Popolare Emilia Romagna più 2,70%, male pesantemente anche Mediaset meno 6,5%, Mediobanca meno 4,60%, Monte dei Paschi meno 3,20%, come Intesa San Paolo, Saipem meno 2,60 come Mediolanum, Fiat meno 2,5 come Unicredit. ...17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso dobbiamo fare la borsa, però Una risposta la devo dare a quelli che hanno scritto sul tema Germania. Sì, la Germania risanò la sua, i costi della sua pubblica amministrazione, i costi, diciamo, della spesa pubblica, però in un periodo in cui l'economia cresceva ed è più facile. Allora, e questo è verissimo, per cui l'obiezione poi, se volete, intellettuale, per non usare parole troppo alte, è che è difficile tagliare quando l'economia frena e scende. È più facile fare riforme quando l'economia cresce, che rischi di, tagliando, di aumentare la recessione, cioè di avere una politica prociclica. Va anche detto però che è colpa nostra se negli anni in cui l'economia, seppur di poco, cresceva, in cui la disoccupazione era scesa a livelli bassi, non abbiamo saputo tagliare i costi della nostra macchina pubblica. Questo obiettivamente non dovevamo pensarci prima. Adesso però dire semplicemente non ci avete pensato non basta, perché a mio avviso la congiuntura ha preso una tale piega che occorrerà un altro tipo di iniziativa. Detto ciò, la borsa. Borsa leggermente negativa oggi, meno 0,85%, meno 0,14% in questo momento l'America, meno 0,21% Francoforte, più 0,27% Parigi. La peggiore quindi è Milano, seppur di poco, ma c'è un caso di borsa che si chiama Mediaset, oggi pesante il calo, meno 6,50%. E poi parleremo anche di T-Media e Telecom Italia Media, che perde il 6,44%, quindi pesante il calo anche lì. Ciao Condina, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Mediaset da un lato e poi arriviamo su Telecom Italia Media. Mediaset è sicuramente un caso di borsa oggi, dall'esito delle elezioni, che sicuramente dà grande incertezza sia sul quadro politico che poi su quello finanziario ed economico. Ha perso oltre il 12%, ricordiamo che Mediaset veniva comunque da un rally molto consistente che l'aveva portata a toccare un massimo a 2,16 euro. Oggi per esempio ha chiuso a 1,46 euro, un rally che poi si era fermato proprio giusto appunto alla vigilia delle elezioni. E diciamo che gli operatori, nel caso appunto del titolo del Biscione, citano soprattutto la forte incertezza che c'è sul destino poi di quelle che saranno le reti televisive che fanno capo alla famiglia Berlusconi. Per quanto riguarda T-Media, come citavi tu, il titolo era positivo fino poi a quello che è stato l'annuncio ufficiale della cessione del canale a Cairo, una cessione del 100%, ma poi sul crollo del titolo ha sicuramente influito anche il dato sulla perdita netta del 2012, una perdita che era attesa sicuramente inferiore a quella che poi è stata, cioè 241 milioni di euro per tutto il 2012, una perdita che porterà necessariamente a un aumento di capitale. Ecco, e per quello che riguarda Telecom Italia Media sentiamo questo brevissimo commento che ha dato in esclusiva a Radio 24 Urbano Cairo, confermando quanto già circolava, ossia il via libera del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Media alla cessione di La 7 Urbano Cairo. Presidente, ci può però tanto confermare la notizia dell'affare fatto? La 7 è sua? Sentite Telecom Italia Media. Però ce lo dica, su, Presidente. No, sentite Telecom Italia Media. Io dico, è un fatto anche formale, credo che sia tutto sentire loro. Però ecco, no. Informalmente possiamo confermarlo. Io so che loro hanno approvato la vendita in CDA, però ci tengo che parliate con loro. Vabbè, però, fatto, no. Però ecco, posso farle le congratulazioni per questa acquisizione? Ce la ringrazio. Mi sono preso una bella patata bollente. Comunque, grazie. E bravo il nostro Dario Ricci che gliel'ha fatta dire a Cairo con questa cosa, perché erano intorno alle 3:30, se vado a memoria, in cui ancora non si è avuto conferma di questo. Tu ragionavi invece, Ceo Condina, sul perché il titolo cali così tanto. Vorrei capire invece un'altra cosa, poi passiamo al traffico e altri titoli. Ad andar bene è stata la Popolare Emilia Romagna più 2,70%. È tutto il lusso, non solo Ferragamo più 2,14, Luxottica più 1,90, ma anche un titolo come Brunello Cucinelli più 6,20%, fa maglioni in cashmere assolutamente ottimo, un grandissimo imprenditore, l'abbiamo avuto ospite molte volte, ma insomma di prezzo caro. Assolutamente sì, Brunello Cucinelli tocca i massimi storici, ma oggi a spingere il lusso, diciamo, soprattutto Ferragamo, indicazioni di stampa sono arrivate sulla redditività del 2012 che hanno fondamentalmente anticipato quelli che saranno i dati ufficiali, quindi il margine operativo lordo, insomma fondamentalmente la redditività dell'azienda si rivelerà superiore a quelle che sono le attese e anche per il 2013 si prevede una crescita dei ricavi a doppia cifra. Questo significa che anche nel 2013 Salvatore Ferragamo continuerà insomma a macinare fatturato e utili e di riflesso anche Brunello Cucinelli si è mosso a rialzo. Allora, ultimi titoli che vorrei commentare con te. Autogrill, da un lato CEO, perché insomma il titolo si era mosso bene, ed Enel poi in realtà ha leggermente ritracciato, comunque ha fatto più 1,25%, Autogrill più 1%. È per Enel più 1,2%, comunque è un titolo a insomma, grossa capitalizzazione, quindi comunque ancora alzo dell'1,2% è significativo. Qui influiscono le dichiarazioni rilasciate venerdì ai mercati chiusi dal direttore finanziario Ferraris, che ha previsto, ha lasciato intendere che il dividendo sarà sostanzialmente in linea con l'anno scorso. Sicuramente una buona notizia per gli investitori e anche per i risparmiatori. Sono molti risparmiatori che hanno in mano il titolo Enel, considerato che diciamo che il gruppo dal punto di vista della redditività ha sofferto molto e che la controllata Endesa, la controllata spagnola, quest'anno non distribuirà dividendo. Per quanto riguarda Autogrill invece, anche qui il titolo ha leggermente ritracciato alla fine, comunque più 1% grazie al dato sul traffico passeggeri a gennaio negli Stati Uniti, che è aumentato del 2%, sicuramente una buona notizia per Autogrill, che realizza quasi metà del fatturato oltreoceano. Migliori e peggiori, migliori li abbiamo detti, ma peggiori in assoluto Axamen 8,96, Unione Alberghi Italiani, tra i migliori, scusatemi, France Telecom più 6,43% e poi SNAI più 4,43%. Noi per un attimo respiriamo, scusatemi, sulle tensioni economico-politiche italiane e anche chiaramente dell'area euro, per parlare di un settore che ci vede insomma leader ancora, per fortuna, a livello mondiale. L'avevo promesso, infatti, il mondo dell'occhiale. Noi siamo insomma i primi al mondo nella produzione di occhiali da sole e montature. Il 25% di tutti gli occhiali da sole e montature al mondo sono italiani, seguono la Cina e Hong Kong. Vale 2 miliardi e 800 milioni la produzione dell'occhialeria italiana, più 5% sul 2012, 880 aziende in leggera diminuzione lo scorso anno. Gli addetti invece sono anche leggermente saliti e ne parliamo perché ha chiuso i battenti, come ogni anno in questo periodo c'è il Mido, che è il salone, la mostra internazionale di ottica e optometria. Si chiude oggi, ha praticamente chiuso i battenti, la 43esima edizione. Allora ne parliamo con il presidente di Mido e Anfao, che è l'associazione nazionale che raggruppa i fabbricanti di articoli ottici, Cirillo Marcolin. Buonasera. Buonasera. Dicevo, l'importanza, la leadership che per fortuna resta ancora incontrastata delle montature e degli occhiali da sole italiani nel mondo e la ricaduta che ha in termini di fatturato. I dati del 2012, a mio avviso, voi potreste essere presi come un chiaro esempio, classico esempio di quello che sta capitando alle imprese del paese. Come è andato l'export e come sono andate invece le vendite sul mercato interno? L'export ha avuto un incremento del 7%, in particolare l'11% da parte delle montature e il 5% gli occhiali da sole. Dobbiamo dire che questo sostanzialmente ha salvato le nostre imprese, perché sono riuscite in quest'anno continuamente a proporre un prodotto innovativo ed avere successo nei mercati internazionali. Come contropartita, evidentemente abbiamo rivisto ancora quest'anno un anno di difficoltà, e il 2012 ha visto un calo delle vendite nel mercato domestico pari a circa il 4,5%. Quindi export un massimo storico, ben capito? Sì, 2 miliardi e 600 milioni, con un 7% in più. Quanti milioni di paia d'occhiali sono? Alla fine sono 92 milioni di paia d'occhiali. 92 milioni. Ecco, di cui, se ricordo bene, i due terzi sono occhiali da sole, cioè sì, quasi 60... In quest'ultimo anno abbiamo riscontrato una maggior crescita degli occhiali da vista, ma fa parte un po' della logica del mercato, un anno tira al sole, un anno tira al vista. Quindi no, su 92 milioni, no, mi è curioso, 60 circa sono chiari da sole e 30 milioni sono chiari da vista. Dov'è che è andato particolarmente bene il nostro export? Beh, sostanzialmente l'Europa, dobbiamo ricordare che il nostro paese è il mercato fondamentale, perché del totale dell'export il 50% è in Europa, 30% negli Stati Uniti, ma quest'anno sostanzialmente hanno tirato altri paesi che sono i paesi di fatto emergenti, quindi da un lato il Brasile, l'Oceania, l'Asia e in particolare, anche se il valore assoluto non è così importante ma in percentuale lo è, la Cina. Ecco, la Cina, oltre che essere un concorrente, è già un mercato oppure no? Perché mi sembra di capire che è un mercato relativo in questo momento. È ancora relativo, però ogni anno continuiamo a dire che è relativo, ma bisogna di fatto prenderne atto che diventa sempre più importante e fondamentale, perché davvero in Cina il Made in Italy è molto considerato. Quindi l'80% è America e Europa, mi stava dicendo. L'America Latina invece, che vediamo essere un mercato molto dinamico, soprattutto Brasile? C'è una certa crescita, ci sono dei dati fra loro anche un po' contrastanti, ma sicuramente il Brasile è comunque, rimane oggi a tutti gli effetti un potenziale. L'Europa invece ha visto questo rallentamento, abbiamo visto la Germania crescere di più, la Francia soffrire, la Spagna e il Portogallo soffrire, quindi credo che le imprese di fatto cerchino di trovare mercati nuovi, perché è lì dove poi vanno a ritrovare successo. Beh, in effetti voi avete fatto un più 13% in America Latina, tra cui appunto un più 28% in Brasile, in Cile addirittura più 90%, bisogna stare attenti, bisogna sempre vedere da che numeri si partiva prima, no, so già l'obiezione, sì. Così come la Cina più 60%, magari da numeri piccoli, e anche l'Arabia Saudita. No, quello che mi interessava far notare anche a chi scrive è che da solo tutto il comparto dell'occhialeria partecipa alla bilancia commerciale con un saldo positivo, cioè tra quelli dagli occhiali e le montature che importiamo e quelle che esportiamo, il dato è positivo per 1 miliardo e 800 milioni di bilancia commerciale, che non è poco, perché noi importiamo 850 milioni di occhiali, ma ne esportiamo, come ricordavamo, per 2 miliardi e 6. Mi dica invece della domanda interna. La domanda interna invece soffre, io credo che la situazione è chiara a tutti, c'è una grossa difficoltà, c'è incertezza. I consumatori evidentemente spostano le loro decisioni di spesa, le imprese hanno difficoltà a investire, non c'è attenzione al credito, quindi credo che se gli imprenditori continuano a fare la loro parte, anche le autorità governative dovrebbero davvero cercare di darci una nazione stabile, con un governo stabile, e soprattutto mettere mano a quelle ristrutturazioni strutturali che sono fondamentali, altrimenti il nostro paese non potrà mai progredire. Sì, questo. Se le dicessi per concludere che voi, come altri settori, ormai siete imprese che hanno sede in Italia, ma il cui mercato non è più l'Italia? Ci auguriamo che non sia così, perché noi abbiamo rispetto del paese dove viviamo, abbiamo creato successo in Italia e vogliamo poter riprendere ad avere successo in Italia come abbiamo avuto negli anni passati, ma per fortuna che esiste l'export. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Come anticipavo prima del GR, tra l'altro, che il mercato interno sia in difficoltà, che i consumi interni non ci siano, lo diciamo da mesi, oggi un'ulteriore conferma, perché nemmeno i super sconti sono riusciti a rianimare le vendite durante i saldi invernali. Oggi chiudono in molte città, c'è un primo bilancio, lo fa Federmoda Italia Confcommercio, un calo del 10% delle vendite rispetto a un 2012 già negativo, con uno scontrino medio fermo a 92 euro, meno 25% come valore dello scontrino staccato, diciamo, sotto i saldi, e addirittura una stima complessiva del 20% finale. Quindi è crollo, così titolano le agenzie, delle vendite anche durante i saldi. E noi torniamo però sul tema del tunnel, la politica nel tunnel, lo abbiamo chiamato nei nostri appuntamenti di alcuni programmi, penso a quello di Alessandro Milan, penso 24 mattino, penso 9 in punto, anche il nostro controluce alle 13 dopo il GR, e così come un approfondimento apposito che è iniziato dalle 16.45. politica nel tunnel. Nella prima parte abbiamo affrontato il tema dei mal di pancia tedeschi, l'euroscetticismo alla tedesca, dove prende piede un partito che sostanzialmente dice alternativa Germania, non aiutiamo i pigs, non aiutiamo i paesi in difficoltà, torniamo allo spirito originario di Maastricht e quant'altro. Questo anche perché in Germania vi saranno le elezioni a settembre. Adesso però, così come abbiamo fatto notare anche i nostri ospiti, che dal nostro punto di vista la Germania ha grossi benefici nell'essere nell'euro in questo momento, torniamo a occuparci dei casi di casa nostra. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, lasciando per un attimo stare l'euroscetticismo alla tedesca, cioè ci mancava solo questo, ma va bene, insomma, è chiaro che questo euroscetticismo ha ricevuto una grossa spinta anche dalla situazione italiana, mettiamola così, già prima i malumori erano tanti, ma arrivare a vedere che si fonda un partito alternativa per la Germania, in Baviera c'era già una corrente di questo tipo, la dice lunga sui tormenti, chiamiamoli così, che stanno attraversando l'area dell'euro. E questa sera, tra l'altro, c'è un vertice Eurogruppo in cui si dovrebbe discutere di Cipro, in sostanza, e della richiesta formale della Lettonia di entrare nell'euro. In realtà l'oggetto, il convitato di pietra nei temi sarà l'Italia. Ora, io con te spesso faccio il punto a inizio settimana per vedere, insomma, che cosa ci aspetta e ci passa il convento. Mi sembra che la prima settimana si sia chiusa con un totale nulla di fatto, ma non vedo, noi l'abbiamo chiamato la politica nel tunnel, ecco, cioè non vedo luci ma neanche spiragli in questo momento, Guido. È esattamente così, un po' come lo era qualche mese fa la situazione economica, dove sì, qualcuno vedeva qualche luce, in realtà la luce non c'era nel tunnel. È passata una settimana e siamo più o meno ai blocchi di partenza, con una situazione molto complicata dal punto di vista politico, perché ormai lo sappiamo tutti, non c'è una maggioranza possibile a uno dei due rami del Parlamento, cioè al Senato. C'è questo tentativo di Bersani, del PD, di coinvolgere i grillini, i quali rifiutano il voto di fiducia sia al PD sia a qualsiasi altra ipotesi di governo, anche di PD PDL. Quindi la situazione è molto molto complessa, e con una serie di veti incrociati, anche perché il Bersani non ha accettato di prendere in considerazione l'ipotesi di un'intesa con il PDL, e quindi siamo in una situazione politicamente bloccata. Forse se ne potrebbe uscire con uno schema che è stato percorso nel 93-94 con il governo Ciampi. Allora Ciampi era governatore della Banca d'Italia, fu chiamato per un governo emergenza che fece tra l'altro la riforma della legge elettorale come primo punto all'ordine del giorno, e questo potrebbe essere uno schema politico che quindi potrebbe magari entrare in pista tra qualche giorno, e quindi un governo che va in Parlamento e cerca i voti di chi è disponibile a darglieli sostanzialmente. C'è un'ipotesi quindi del governatore della Banca d'Italia, naturale di Visco, però ci sono anche altre ipotesi. Si sente parlare ad esempio in queste ore a Roma di un possibile incarico tecnico al ministro dell'interno Cancellieri, quindi staremo a vedere. Certo, al momento la situazione, ripetiamo, è assolutamente bloccata. E la mia domanda, scusa se insisto, tu hai scritto un bel editoriale sabato per il Sole 24 Ore ricordando, insomma, quello che è il paese, la fotografia dell'Istat sul 2012, sì. L'abbiamo commentata anche noi, chiaramente era drammatica, cioè il 2012 che è stato un anno di ulteriore recessione, ma più che recessione, di aumento della disoccupazione. Il dato poi di gennaio è ancora più problematico per quella giovanile, si sono creati 620.000 disoccupati nuovi con i licenziamenti, non è solo la disoccupazione di prima, non è solo chi non riusciva a cercare a trovare un lavoro, ma è anche chi adesso non ce l'ha più. E il tutto a dimostrare che, insomma, il paese è economicamente fermo, c'è chi dice anche in ginocchio, su questo devo dire che i rischi di chiusura di migliaia di imprese, tu arrivavi a stimare, se non ricordo male, il 20% in alcuni settori di rischi di chiusura sono drammatici. La mia domanda però è quanto l'Europa potrà aspettare, cioè nel senso che c'è un vertice il 15 di marzo a Bruxelles, un Consiglio europeo in cui è ovvio che deve andare un Presidente del Consiglio, e ci andrà Monti se non c'è un altro nome. Questo senza dubbio che il 15 andrà a Monti. Hai capito, però a questo punto ci andrà un Monti che indebolito non solo perché è un Presidente del Consiglio uscente, ma anche per il risultato elettorale, diciamola tutta, per cui non ha più dietro due partiti che lo sostengono, ma ha avuto anche voti inferiori alle attese. È chiaro che questo può rappresentare anche una debolezza dell'Italia quando deve andare a rappresentare un paese, no? Perché se tu non sei così rappresentativo, Guido, tu mi insegni che poi ottieni poco e viene anche poco creduto nel senso, diciamo, buono del termine, no? Assolutamente, perché questa situazione di incertezza sui numeri di una possibile maggioranza gettano appunto più di un'ombra sulle prossime settimane. Tu hai ricordato la scadenza del 15 di marzo, e al momento coincide il 15 di marzo con, diciamo, l'apertura delle Camere in Italia, se non si troverà l'accordo per accorciare i tempi e quindi fare un decreto ad hoc su questo punto. E dobbiamo pensare che solo intorno al 21 di marzo, stando a questo calendario, il Presidente Napolitano, il Presidente della Repubblica Napolitano, sostanzialmente inizierà le consultazioni. Quindi i tempi sono in questo momento, non possono che confermare l'ipotesi che il 15 marzo vada l'attuale Presidente Monti, ma nel quadro che ricordavi tu, e quindi diciamo di un Presidente del Consiglio in una fase di assolutamente, diciamo, interlocutoria alle spalle, e una situazione economica invece gravissima, di gravissima emergenza, lo vediamo ogni giorno, non solo per i dati che riguardano l'economia reale, l'occupazione, la disoccupazione, ma anche sulla situazione finanziaria, perché ormai siamo a un passo dal controsorpasso, purtroppo, in termini di spread con la Spagna. E questo sarebbe molto grave, perché dopo, diciamo, un segnale gravissimo. Dopo l'arrivo di Monti si era ottenuto che l'Italia da sempre, tranne che nel periodo finale della crisi del governo Berlusconi, ha uno spread più basso della Spagna, di 40-60 punti mediamente. A novembre, ottobre del 2011 eravamo noi più a rischio della Spagna, se usiamo lo spread come termometro, poi la situazione era tornata a livelli normali e adesso ci stiamo riavvicinando allo spread spagnolo. Dopo il traffico però vorrei collegarmi con Bruxelles per sapere da Beda Romano le attese dell'Eurogruppo e poi chiedere e concludere con te, Guido, perché da qualche parte cioè non è che si può continuare a ipotizzare, cioè le soluzioni possono essere due, tre a questo punto, insomma, visto i tentativi andati completamente a vuoto nei primi giorni, quindi nella prima settimana post elettorale. Beda Romano in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Beda. Buonasera. Allora Beda, questa sera c'è il vertice Eurogruppo, domani il vertice Ecofin. Dicevo che formalmente si discuterà dell'aiuto a Cipro, 18 miliardi richiesti, e tra l'altro anche l'adesione della Lettonia. Però il vero tema sullo sfondo, mi sembra di capire, sarà l'Italia, ed è l'Italia. Sì, credo che dell'Italia si parlerà inevitabilmente, perché anche se non è in agenda, la riunione può essere l'occasione per i ministri finanziari della zona euro di capire direttamente da Vittorio Grilli qual è la situazione in Italia. Io ho l'impressione che Vittorio Grilli coglierà questa occasione prima di tutto per ricordare quello che ha fatto l'Italia nell'ultimo anno e mezzo, in altre parole il risanamento dei conti pubblici, il calo del deficit probabilmente sotto al 3% l'anno scorso, e tutta una serie di misure per riportare il deficit stabilmente sotto a questo limite anche nel 2013 e 2014. I ministri probabilmente tenteranno di avere da Vittorio Grilli anche una sensazione su come potrebbe cambiare la scena politica italiana dopo le elezioni della settimana scorsa. Vittorio Grilli probabilmente cercherà così di rimanere molto concreto sulle prossime tappe della crisi politica italiana. E adesso invece per te la domanda che facevo anche Guido Gentili, che è in collegamento con noi: secondo te, questa è veramente un'opinione, diciamo così, da giornalista, quanto potrà attendere ancora l'Europa per capire che strada prenderà l'Italia? Voglio dire, adesso vedremo con Guido le varie ipotesi possibili, ma prima che vi sia un indirizzo, una direzione? È evidente che i ministri in generale, l'establishment politico europeo è estremamente preoccupato dalla situazione italiana. È preoccupato prima di tutto perché il voto italiano ha mostrato il successo forte di alcuni partiti che definiamo in questo momento populistici, e il timore è che questa ondata anche possa anti-euro modo, diciamo, contro possa, questa Europa, certo, diciamo, certo, potrebbe anche avere così un riflesso su altri paesi. Per esempio, la cosa interessante è che questo fine settimana si è votato a livello regionale in alcune regioni dell'Austria, e c'è un partito nato recentemente e di cui è alla guida un imprenditore che si chiama Stronach, e questo partito vuole che l'Austria esca dall'Unione Monetaria e ha avuto circa il 10% dei voti, che non è poco, visto che questo partito... Ne parlavamo in apertura, infatti, del programma, certo. Pochissimo tempo fa. Quindi c'è la paura, prima di tutto, che possano ripetersi i casi italiani in altri paesi, e poi naturalmente c'è il fatto che l'Italia è un grande paese dell'Unione Monetaria e se torna sotto la pressione dei mercati rischia di complicare la vita a tutta la zona euro. Quindi secondo me i tempi della pazienza europea sono dettati dai tempi della pazienza dei mercati, e non peraltro ancora oggi, entrando in questa riunione a Bruxelles, alcuni ministri hanno spinto per una soluzione rapida. Allora, l'Europa non lo dice chiaramente perché non ha voglia di esporsi, non ha voglia di prendere in questo momento una posizione troppo chiara, ma l'impressione che si ha da qui è che l'Europa opterebbe per un governo di grande coalizione, in modo tale da dare il massimo di stabilità possibile all'Italia, sapendo benissimo che non è semplicissimo nella politica italiana trovare un accordo politico fra i due grandi partiti. Grazie Beda Romano in collegamento con noi da Bruxelles. Dunque, Guido Gentili, anche alla luce di quello che diceva Beda, devo dare una precisazione. È vero che lo spread è sceso anche e soprattutto grazie all'intervento di Mario Draghi, quando ha detto difenderemo l'euro e ha messo in piedi il meccanismo MT di salvataggio dei paesi, il meccanismo antispread, difenderemo l'euro finché sarà necessario. È verissimo questo. Si ragionava solo di quando il nostro spread era più alto di quello spagnolo e ci si sta riavvicinando. Dicevo, Beda Romano ha detto, insomma, non lo possono dire ufficialmente, però l'Europa apprezzerebbe il governo con la più grande maggioranza possibile, che significa governo di grande coalizione. Parliamoci chiaro, visto il rifiuto dei grillini, a questo punto immagino solo un PD-PDL, che è un'ipotesi. Poi, l'altra ipotesi che abbiamo letto, un governo di scopo, che assomiglia un po' a un governo tecnico con delle cose più imminenti, fare 3-4 riforme e poi tornare alle elezioni. E qui ci sono circolati i nomi di Visco, della Cancellieri, di Amato e quant'altro. E poi invece un governo politico che tenti comunque di avere una maggioranza, per quanto variabile, in Parlamento, no? Cioè cercare di vedere chi ci sta. Ecco, di queste tre ipotesi, se vuoi aggiungere una quarta, quale ti sembra quella più percorribile? Allora, al momento tenderei ad escludere la terza, quello di un governo politico, cioè il tentativo che è in pista in questi giorni, in queste ore, quello, diciamo, di Bersani, che prova ad andare in Parlamento e a ricevere, diciamo, una fiducia, un voto di fiducia, che stante, diciamo, quella che è l'atteggiamento e la scelta dei grillini, non avrà. E quindi non credo che il Presidente della Repubblica imbocchi questa strada, sapendo, diciamo, che sarebbe comunque destinata a cozzare contro l'ostacolo Grillo. Rimane l'ipotesi del governo di scopo, come dicevi tu, ed è quello appunto di uno schema alla Ciampi del 93-94, condotto, diciamo, da un tecnico. E diciamo, l'ipotesi che sta ovviamente a cuore all'Europa è quella di un governo politicamente molto più stabile, quindi torniamo all'ipotesi di larga convergenza, di larga convincenza politica tra il PD, il PDL e il centro di Monti. Stante l'attuale veto di Bersani su Berlusconi, però occorre, diciamo, avere uno scatto a questo punto, allora, di fantasia, e trovare una persona che secondo me non può essere Monti, perché dovrebbe essere reincaricato, e dopo i risultati elettorali non credo che questa sia la strada che percorrerà Napolitano, e quindi torniamo a un'ipotesi di un governo di larghissime intese, magari ancora con un presidente tecnico che nessuno potrebbe, diciamo, non votare in queste circostanze di emergenza. Ma, scusa economica. La domanda, ma un governo di questo tipo, di larghe intese, sì, con un nome, diciamo, che vada bene al PD, al PDL, a Monti, per farsi capire, ma non sarebbe di fatto anche un governo di scopo? Cioè, per quanto tempo PD e PDL e Monti possono votare la fiducia a un governo di, sì, larghe intese? Cioè, a meno che non si dica il tuo compito è riformare la legge elettorale, fare la manovra finanziaria e arrivare a settembre, poi si arriva alle elezioni. Cioè, chiedo perché... Il punto è esattamente questo, la differenza è tra un governo di scopo che agisce per sostanzialmente 2 mesi e torniamo a rivotare a metà giugno, e un governo, diciamo, di scopo a lunga gittata tipo governo Ciampi, che invece dura 1 anno e magari andiamo a rivotare nella primavera del 2014. Queste sono le uniche 2 strade possibili di un governo di questo tipo, anche perché, diciamo, sarebbe poi difficile tenere insieme, diciamo, una maggioranza ancora, sì, l'abbiamo visto già. Esatto. Anche perché l'esperienza che hanno avuto con Monti, sia il PD che il PDL, poi l'hanno voluto, si sono subito distanziati durante la campagna elettorale, quindi è difficile anche immaginare che tornino a votare assieme se poi si torna a elezioni per un lungo tempo, tutto qui. Esatto, quindi potrebbe essere l'ipotesi di arrivare a giugno, semplicemente solo a giugno. Ecco, vabbè. Tiriamo a campare prima di tirare le cuoio. Chi era Craxi che disse meglio tirare a campare che tirare le cuoio? Leggere questa partita politica, leggere alla luce di quello che sarà l'andamento dei mercati, diciamo, da domani e nei prossimi giorni, perché saranno quelli i tempi, saranno, sì, i mercati, sì, a dettare i tempi di questa crisi. Che per ora sono ancora alla finestra. Grazie a Guido Gentili, noi saremo qui a raccontarvela ogni giorno, questa politica nel tunnel e anche la sua evoluzione. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.